La tua torre è stata distrutta. Quando sarò imperatore, le mie torri saranno fatte d'oro. I tuoi gusti sono sempre inaspettati.